Lo so, signor Maurizio, questa qui è l'unica che non è bonsai. Lo so, ma c'era sto discorso da portare avanti, signor Maurizio. Però adesso, se vuole, le faccio sentire la canzone più bonsai del mondo. Vabbè, la faccio. Questa si intitola Finale di una canzone. Yeah!